sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21, passate da 3 minuti, buonasera da Agostino Spolaore e buonasera anche dal mio fedele compagno come sempre, cioè Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. State ascoltando Blu Radio Veneto con queste due voci che questa sera terranno vita, terranno compagnia fino alle 22.30 per la presentazione di questo live consueto del giovedì. Questa sera abbiamo un cantautore che ci arriva direttamente da Genova, si chiama Antonio Clemente. Ciao Antonio. Ciao a tutti. Poi comunque ne parliamo di te. Dicevo, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita, le nostre frequenze 88 e 700, 94 e 600 MHz in modulazione in frequenza. Poi ancora vi ricordo la nostra pagina su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, ma ne abbiamo due. La seconda è Blu Radio Veneto Rock Wave, pagina gestita dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco, che salutiamo, che comunque sarà presente alle 22.30 sempre qui con la sua classifica, la sua musica rock. Vi ricordo il nostro sito, e cioè www.bluradiomaneto.it. Lì potete ascoltarci in diretta, in streaming 24 ore su 24, oltre ovviamente a leggere tutte le informazioni che vi diamo sia per la musica che per quanto riguarda i fatti, la cronaca insomma di ogni giorno. E poi ancora i nostri numeri, quello telefonico, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre quello telefonico sms è il 346 2320 033. Vi dico subito, prima di cominciare la trasmissione, Antonio perdonami, ti rubo 30 secondi, vi devo dare una bruttissima notizia. È morta una degli idoli della musica dance mondiale degli anni 70. Ha fatto un'epoca, ancora adesso si ballano le sue canzoni, si cantano, si ascoltano le sue canzoni. Vi devo annunciare che è morta Donna Summer. Non lo sapevi, Maurizio? No, non lo sapevo. Me l'ha detto adesso Gianluca, guarda, mi ha comunicato che ci sta. Non lo sapevo, mi dispiace. Ecco, è morta. Quindi, chiusa questa parentesi, doveroso omaggio a questa grande artista. E dicevo, abbiamo con noi Antonio Clemente. Perdonami se ti ho rubato qualche... abbiamo cominciato questa tristezza musicalmente parlando e mi dispiace veramente per i fans. Ciao Antonio, benvenuto a Blu Radio Veneto. Ciao a voi, grazie di avermi ospitato. Eccomi qua. Hai fatto un bel viaggio, sei venuto da Sì, ma è stato piacevole. In compagnia del mio fido chitarrista, tastierista, che più ne ha più ne metta, Manuel Perasso, che salutiamo. Ciao Manuel. Ciao a tutti, salve. Parla vicino al microfono, Manuel. Eccoti qua. Ciao Manuel. Buonasera. Allora, Antonio, il viaggio è andato tutto bene, ti sei riposato, ti sei fatto 2 giorni qui a Padova. Sì, è stata una vacanza più che un'ospitata radiofonica, e quella è la ciliegina sulla torta, diciamo. Siamo stati molto bene a Padova, insomma, una bellissima città sotto ogni aspetto. Direi. Hai visto un po' di cose, insomma. Sì, sì, cose, persone, insomma, una bellissima città dove infatti abbiamo deciso di trasferirci a breve con tutta la band. Zona centro, sì, dove vicino al polo universitario, insomma. Ecco. Molto, molto bella. Hai visto anche le nostre bellezze, allora? Sì, sì, molto belle. Bellezze naturalistiche, urbanistiche, artistiche anche. Soprattutto artistiche. C'è la cappella degli Scrovegni di Giotto, insomma. Museo degli Scrovegni. Sì, sì, bellissimo. Cioè, veramente una bellissima città, molto pulita, ordinata. Poi abbiamo trovato anche una bellissima giornata, sia oggi che ieri. Quindi, insomma, è stata veramente una bellissima vacanza di cui ci ricorderemo volentieri in futuro. E quando verrà anche il prossimo disco, ci... Infatti, ho deciso, perché abbiamo fatto un esame, insomma, di tutte le canzoni che hanno come titolo una città, e abbiamo realizzato che non esiste una canzone con il titolo di Padova. Quindi abbiamo deciso di scrivere una canzone dedicata a Padova. No? Che bello! No, beh, comunque scherzi a parte. No, c'era veramente... Baccini, mi sembra. Baccini ha dedicato un pezzo a Padova. Le ragazze di Modena. Ah, dentro c'era anche... Parlava anche delle ragazze di Padova. È vero, va bene. Non i caso. Siamo orgogliosi che tu abbia l'idea di fare questo pezzo. No, ma sto scherzando. Non si sa mai. Comunque è davvero una bella città. Ecco, dal punto di vista artistico, adesso dobbiamo fermarci un punto molto importante. Tu ti definisci tecnicamente così: Pittautore. È una bella definizione, una definizione pesante, problematica, nel senso, ecco, pesante nel senso che è importante, dai. In realtà è una definizione che io mi sono messo un po' autoironicamente, senza prenderla troppo sul serio, anche perché io sono una persona contraria alle etichette, quindi non vorrei che finisse per diventare un'etichetta questa qui di pittautore. È un po' un gioco di parole di basso livello per mettere insieme le due attività di pittore e cantautore, che sono nella mia vita, diciamo, parallele. Ma sono d'arte, sia la pittura sia la musica, esatto. È arte, sì, perché io in realtà nasco pittore, E continua a essere, a vivere, perché sai, cioè, cioè, nasco pittore, muoio cantautore, no? In effetti, nasco pittore e continuo a vivere come anche cantautore, anche. Quindi le due attività artistiche mi accompagnano e quindi fanno sì che io riesca a sopravvivere in qualche modo. Ma non solo pittore, sei anche scrivi poesie. Vabbè, sì, ho anche scritto delle poesie, infatti io, diciamo, volendo fare un excursus cronologico della tutte mia, le tue attività, tante, mie attività, ne fate io tante. Ho iniziato da bambino disegnando dei fumetti, di mia invenzione. Poi ho scoperto la pittura e allora ho cominciato... Seriamente l'hai fatto proprio la pittura? La pittura si sì, ho cominciato negli anni del liceo artistico, da adolescente a dipingere i primi quadri, e quindi ho abbandonato il fumetto per dedicarmi alla pittura. Poi ho cominciato anche a leggere e quindi mi sono anche interessato alla... Nel frattempo ascoltavo tanta musica, ma non avevo la chitarra, e quindi nel frattempo ho scritto delle poesie. Poi una volta avuta la chitarra ho cominciato anche a scrivere le prime canzoni, e adesso quindi mi ritrovo ad avere queste tre attività che comunque si equivalgono nella mia scala di valori, cioè non ho una preferenza, una predilezione particolare per una delle tre. Tu hai detto, hai scritto nella tua biografia che hai sentito Vasco, Ligabue, De Gregori, ma anche l'hard, il metal, il brit, no, sì, certo, il dance, hai sentito un po' di tutto. Io sì, devo dire che cerco tuttora di ascoltare un po' di tutto, non ho un genere musicale preferito. Prediligo sicuramente, come penso di avervi scritto, le canzoni melodiche, sì, per esatto, me la melodia riff, importante, però riff coinvolgenti, attenzione, e melodiche, attenzione, melodiche, non neomelodiche, perché poi c'è chi confonde le due cose. No, apicella non c'entra, apicella non c'entra, apicella no, apicella proprio non no, c'entra proprio no. E quindi sì, al di là del, a prescindere dal genere, dal rock al pop, al blues, insomma, ho sempre ascoltato di tutto, e quindi i cantautori, ad esempio italiani, che sono magari rientrano nella categoria della cosiddetta musica leggera, ma hanno secondo me anche una loro pesantezza nei testi, che è equivalente quasi al peso che può avere la musica rock da un punto di vista melodico. E quindi il concetto di rock potrebbe, da questo punto di vista, diventare molto relativo, perché può essere rock una canzone di Guccini, chitarra e voce, come può essere rock un pezzo dei Black Sabbath o degli AC/DC, cioè voglio dire, o di Nirvana piuttosto. Quindi cerco di, cioè, mi ritrovo nella mia sfaccettata personalità in vari generi, in vari artisti, in vari gruppi che ho ascoltato via via, ecco. Bene, io direi di rompere subito il ghiaccio, Antonio, se sei d'accordo con me e con Maurizio, ci facciamo ascoltare subito qualcosa per quanto riguarda la tua produzione, cioè questo disco infinito che sei venuto a presentarcelo qui, sì. Disco che è uscito in quando, Antonio? Allora, noi l'abbiamo registrato ad agosto dell'anno scorso ed è stato ufficialmente pubblicato a gennaio su iTunes, e quindi, di quest'anno, diciamo, praticamente, di quest'anno, del 2012, tramite una piccola etichetta discografica che è la Video Radio di Beppe Aleo, che salutiamo. E niente, noi quindi in realtà queste canzoni le suoniamo in giro da 3 anni circa, però diciamo che ufficialmente il disco esce a gennaio. Sì. Quest'anno, nel 2012, esatto, sì. Quindi è proprio fresco, insomma. Abbastanza, sì. Bene, ci ascoltiamo la canzone che apre questo EP, cioè Stagioni. Lui è il pittautore Antonio Clemente. Dolore, stagioni. ragione e follia ci lascia soli ed aggrappati a una scia. Seduti al bar, rassegnati al loro passato, al loro passato che fu crudele ma prezioso, anche se non torna più, non torna più. Giovani come me guardano le stelle, sognano che non arrivi presto un futuro che forse non c'è. Tra odio e amore, gioia e dolore, stagioni volano via e tutto corre in fretta e scivola in questa grande corsia. C'è chi tempo fugge tra ragione e follia, ci lascia soli ed aggrappati a una scia. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Stagioni di Antonio Clemente, la canzone che apre questo disco che si intitola Infinito. Io ti chiedo subito una cosa, Antonio. Questo disegno è tuo, questa barca? L'immagine di copertina è un particolare di un mio quadro, sì. Che rappresenta? Che rappresenta una barca, e la barca è comunque un simbolo, diciamo, fra il finito e l'infinito, cioè nel mio immaginario. Il fatto che la barca poi comunque nella copertina sia arenata nella spiaggia, ma può essere anche un attimo in relax. Ma sì, riposo. Vabbè, questo lo lascio alla libera interpretazione, certo, di chi guarda il quadro. Pronta per essere preso. Esatto, e quindi è un'immagine che comunque mi descrive molto. Da adesso non vi so spiegare il perché. Però mi rappresenta molto quell'immagine, mi sembrava adatta per il disco. Visto che comunque nel disco parlo anche molto di mare, di me, io sono molto legato al mare. Beh, abiti a Genova, quindi. Abito, sì, a Genova, vengo dalla Sicilia, e quindi il mare fa parte, cioè, di me. Cioè, proprio pensando. Non riuscirei. Sicilia dove, se non sono troppo curioso? E in Sicilia sono nato nella provincia di Trapani, nella ridente cittadina di Castelvetrano, in provincia di Trapani, a 10 km dall'acropoli di Selinunte, a cui faccio pubblicità già che, certo, ci sono. Come no? Andate per quest'estate imminente a visitare Selinunte, l'acropoli più grande d'Europa, assieme ad Atene, dove comunque ci sono delle bellissime spiagge, e quindi per forza di cose comunque ci sono molto molto legato. Castellammare del Golfo. Castellammare del Golfo, Alcamo Marina, Mazara del Vallo. Ci sono stato l'anno scorso. Sì, ti giuro. E parlando, ritornavo a parlare di questo pezzo, Agostino mi ha detto una cosa molto interessante, Antonio. Questo era un pezzo grunge, come possiamo, alla Nirvana. Almeno nell'intenzione, sì, diciamo, l'ho scritto all'età di 18 anni, c'è stato veramente una delle prime canzoni, e anche per questo motivo l'ho voluta mettere come prima traccia del disco, no? Quindi è una canzone proprio all'inizio di carriera, possiamo dire. All'inizio della carriera, non so, in realtà non so se l'ho mai iniziata la carriera, però diciamo che è stata una delle prime, dei primi esperimenti, o comunque la prima canzone che io ho detto, beh, questa si può definire una canzone, perché in realtà ne avevo scritta altre che ho rimosso immediatamente, sia fisicamente che mentalmente, cioè dal mio repertorio. E quella lì si poteva definire una canzone, e comunque ci sono poi affezionato, sai, è un po' come il primo amore. Certo, certo, che non si scorda. Non si scorda mai, però sai. Qualcosa si scorda. Come dice anche la canzonetta, il primo, come è bello il primo amore, il secondo è più bello ancora. Beh, tutta un'altra canzone. Quindi praticamente ha distrutto. No, vabbè, l'ho voluta mettere per una questione di coerenza. Ed è comunque, come tu accennavi, una canzone che nasce dall'ascolto del grunge, Nirvana, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, eccetera. Quindi l'intenzione è quella, almeno di buttare fuori un po' quella che può essere la rabbia di un classico diciottenne italiano che vive nella provincia siciliana. E ho voluto parlare del tempo, del tempo inteso come cronos, cioè come tempo che passa, che scorre, in cui, esatto, che scorre, in cui mi sono sempre un po' sentito imprigionato, anche a 18 anni paradossalmente, certo. Quindi la ricerca dell'infinito, inteso anche in questo senso, nel senso appunto della canzone Stagione, anche come infinito temporale, non solo spaziale, allude proprio a quello, al fatto che comunque l'unico modo a volte per trovare questo infinito è cercare di trascendere il tempo, i confini proprio non solo spaziali ma anche temporali. Quindi è un po' una canzone che parla di questo. Ho capito. Musicalmente stavolta abbiamo abbandonato le armonie forti. È un pezzo pop, abbastanza, con una melodia molto accattivante. Però alla fine, dicevo con Manuel, parlavo con Manuel, che Manuel suona la chitarra nel disco, chitarra elettrica. C'è questo riff finale, non somiglia a Nirvana, però ipoteticamente si poteva collegare ai Nirvana, questo finale di chitarra. La solo di Stagioni. La solo di Stagioni. Cosa dici, Antonio e Manuel? Di questo ne deve parlare Manuel, che è l'autore della solo. Quindi Manuel, che parola. È l'autore della solo, che è qua davanti a me. Ma che stasera suona la tastiera, però va bene. Vicino al microfono, Manuel, per piacere. In Nirvana li ho ascoltati anch'io, li ascolto tuttora ogni tanto. E poi, insomma, il tiro generale della canzone mi ha suggerito una cosa di questo tipo. Sì, beh, secondo me è venuto molto bene, cioè il pop, il delicato, l'accattivante, però alla fine l'anima rock di Antonio e tua viene fuori, mi pare, esatto, che sia giusto. Sì, l'ho dovuto picchiare. Ah, l'ho dovuto picchiare. Per tirargli fuori l'anima rock, però alla fine ci sono riuscito. No, scherzi a parte, lui, lo dico qui pubblicamente a radio, così a scanso di equivoci, cioè, ha un grosso potenziale, perché è un ottimo musicista, sia quando suona la chitarra elettrica, acustica, classica, o quando suona le tastiere. Sì. E quindi in questo disco, cioè questo disco, la realizzazione di questo disco ci è servito anche, secondo me, a rafforzare la nostra intesa non solo umana ma anche musicale. Ho capito. Perché lui magari era abituato a suonare cose molto più lievi, cioè più soft, invece grazie a questo disco, secondo me, lui è riuscito un po' a tirare fuori il suo potenziale rock che esiste, che deve esserci, che insito un po' in tutti noi, in tutti, cioè, i rockettari, insito in tutti i rockettari, ma è una cosa bella, è una cosa giusta. Il rock c'è poco da fare, è movimento e anche tensione e voglia di scoprire, di emozionare. Sì, ma rock infatti il rock non è inteso come genere musicale. Il rock in senso assoluto. Non sto qui a dire che faccio rock, perché me ne guarderei bene. Però diciamo che l'attitudine spesso è quella. Ecco. Certo, certo. Il modo. Esatto, il modo. Hai detto una cosa giusta. E io direi, sei qui per suonare, c'hai quello strumento che ti piace tanto. Una chitarra. Fatalità, guarda caso. Sì, ma mi sono trovato questa chitarra qua per caso. Ah, per caso, passavi di qua. Allora quasi, perché no? Vi faccio ascoltare qualche canzone qua dal vivo. Qua ci suoni qualcosa, eh? Sì, perché no? Cosa ci fai ascoltare? Adesso? Allora, vi faccio ascoltare, volendo stare all'ordine cronologico della canzone, la seconda traccia si intitola Mai dire ormai, ed è un po' un invito a non arrendersi, a non mollare mai, appunto a non rassegnarsi e dire ormai è tardi, ormai non c'è più tempo, e quindi cercare comunque, nonostante le avversità delle circostanze della vita, a insistere e crederci veramente, ma crederci veramente fino in fondo, cioè mettendosi in gioco fino in fondo e mettendo veramente tutto se stesso in quel che si fa, in quello in cui si crede. Ok. Ragazzi, andare verso il nulla più totale, chiusi dentro un male cosmico. Questa mia generazione non ha alcuna direzione, persa in questo mondo cinico. Io non so cosa darei, che farò dei sogni miei. Non mi voglio rassegnare, non è tardi per cambiare. Se lo vuoi e se ci credi puoi vivere e lottare senza mai dire ormai. Mai dire ormai. Oggi sono ritornato tra i miei sogni del passato. Tutto scorre e niente morirà. Questa mia aspirazione coltivata con passione sotto un nuovo sole fiorirà. Io non so cosa farei, ci sarò se tu ci sei, ma non voglio più aspettare, è il momento di cambiare. Se lo vuoi e se ci credi puoi vivere e lottare senza mai dire ormai. Mai dire ormai. Mai dire ormai. L'ultima goccia, mi pare giusto che sia così. Bellissima, mi è piaciuta perché è molto particolare e ha un testo secondo me che entra dentro, molto, molto incisivo. Bene, ci fa piacere. Poi noi questa sera l'abbiamo proposta in questa versione decisamente inedita, acustica, unplugged. Come si dice? È come nasce la canzone, no? Nasce così, chitarra, esatto, e voce. Esatto. Si è poi abbellita dal pianoforte, quindi insomma spero che sia arrivata. Certo, certo. Io ti porto già dei saluti, cioè andiamo da Trieste, Giulia, che è comunque la nostra fedelissima ascoltatrice. C'è una cantautrice, si chiama Giulia Daici. Ah sì, la conosco tramite Facebook. Ecco, benissimo. Poi andiamo a Madrid, in Spagna. Ti stanno ascoltando, si chiama Isha Zeni. Hola. La salutiamo caramente, gli mandiamo un bacione. Certo. E poi ho scoperto, Antonio, che io e te abbiamo in comune dei vari amici. Uno è Alberto Lupi Musso. Che lo salutiamo caramente. Salutiamo. E poi c'è una carissima amica mia che io veramente adoro perché è una bravissima persona, ce l'ho nel cuore, gli voglio un mondo di bene. Ed è Karen Ciaccia, che è stata qui anche a... Ah, sì. La Karen salutiamo, Ciaccia. Magari ci sta ascoltando, che dici? Se ci ascolta la salutiamo molto volentieri. Ciao Karen. Ciao Antonio! Ah, eccola qua, che sorpresa! Uè, com'è là? Ma tutto bene. abbiamo deciso qua di rimanere a Padova e non veniamo più a Genova, così insomma c'è un cantautore in meno a Genova, perché mi hanno detto che a Padova non ci sono cantautori, quindi insomma noi vogliamo sopperire a questa lacuna e rimarremo qua insomma. Bravo, dai. Tanto bisogna dire che quando si va a Blu Radio poi non si vuole più venire via, perché a me è successo questo, cioè è rimasta una nostalgia incredibile. E poi se non ci sono cantautori, beh, veniamo noi a fare dare infortino, no? Va bene, Agostino. Guarda, la prima volta che ho sentito Antonio Clemente di dirsi, ha fatto una canzone che mi ha colpito particolarmente. Antonio lo sa perché ogni volta che ci vediamo glielo ricordo. E cioè? È Mediterraneo. Infatti me lo dicevo prima, Karen. È una canzone veramente speciale, perché richiama tutti, non so, tutti i colori della sua bella terra di Sicilia e comunque anche il Mediterraneo, dove siamo un po' tutti, diciamo, una terra comune. Quindi mi ha talmente colpito che ho sempre detto Antonio bravo, e ho scritto una canzone che infatti gliela cantichiamo sempre ogni volta. Mi ricordo esattamente quel momento, Karen è venuta da me a fine concerto, mi ha detto: ma quella canzone lì, Mediterraneo, di chi è? Perché pensava fosse una cover. Io lì mi sono sentito un po' imbarazzato, ho detto: no, ma scusami, ma è mia. Vero, vero, un capolavoro. Bravo Antonio. Ti ringrazio, Karen, della stima che ricambio. Lo sai che insomma c'è sempre tanto sostegno e mi raccomando. Sì. Ti mando un bacio. Salutami Genova, ci vediamo presto. Ci vediamo presto, goditi Blu Radio finché dura e saluti a Agostino Maurizio. Grazie, grazie a te. Karen, grazie della disponibilità. Grazie a voi, un bacione. Ciao bella, un bacio, ciao, spero grazie. Di rivederti presto. Ti aspetto col disco nuovo, mi raccomando. D'accordo. Ciao bella, ciao, un bacio, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, contento Antonio, hai visto? Sì, vedi. Arriviamo. Non ci facciamo mancare niente. Niente, anche Alberto ti sta salutando. Comunque dice che sta lavando i piatti e ti sta ascoltando. Ah, beh, dai. È un bel modo per lavare i piatti, ascoltare Antonio Clemente. Lo consigliamo a tutte le casalinghe di ascoltarci mentre lavano i piatti. Sono le 21:30, Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spolaore, che assieme a Maurizio Calzavara vi sta regalando quest'ora e mezza in compagnia di Antonio Clemente e di Manuel Perasso, se non sbaglio. Esatto. Con il suo lavoro, la sua produzione, il suo disco che si chiama Infinito. Vorremmo ricordare in questa sede anche il resto della band. Mi pare giusto, certo, che sia. Fra cui Alice Nappi, che è la violinista che ha suonato il che violino. Che Maurizio tanto aspettava qui. Il disco che purtroppo non siamo riusciti a portare. Il bassista Giovanni Sanguinetti e il batterista Mario Basa, che salutiamo se ci stanno ad ascoltare. Certo. E la band con cui praticamente suoni in giro. Esatto, perché sono dei componenti diversi rispetto a quelli del disco. Fra cui c'era anche Stefano Lucchesi alla batteria, certo, e Domenico Mangone al basso. Esattamente. Una cosa interessante di Antonio, i nostri ascoltatori non lo sanno, è la sua continua ricerca di una band effettiva, perché ne hai cambiate tante band. Nel senso positivo del termine. Nel senso positivo, sì, vabbè, quando non ci si trova bene a suonare, perché si hanno magari gusti e ambizioni diverse, è normale che è meglio, è giusto. Sì, perché tu in Sicilia, certo, avevi una band che si chiamava Combricola, che faceva cover, ma anche pezzi tuoi. Esatto, io in Sicilia ho avuto per 5 anni una cover band, e anche lì comunque ho cambiato spesso musicisti, perché cioè, insomma, spesso ognuno ha i propri impegni, certo, per andare a vivere il proprio cammino, e quindi è normale che le strade spesso si dividano. Si dividano. E quindi anche qui adesso ho una band di cui sono molto contento, insomma, spero che duri il più possibile, perché comunque è anche un po' stressante dover cambiare. Perché cioè, stressante, sì, probabilmente è stressante, però è anche interessante nel senso della ricerca. Sì, a livello di incontro, di ricerca, esatto. Sì, è anche molto interessante, sì, sicuramente. E quindi hai cambiato diverse band e sei venuto a Genova perché giustamente hai scritto nella tua biografia: volevo stimoli nuovi dalla, esatto, Sicilia. Ma io, guarda, bisogna dire che sono una persona fondamentalmente molto irrequieta e che quindi dopo un po' mi stanco di me e del posto in cui vivo, e quindi a un certo punto, dopo 26 anni di vivere in Sicilia, fare una vita che comunque è stata molto irrequieta ma felice anche allo stesso tempo, cioè nel senso che non ho brutti ricordi, anzi, ho voluto spostarmi per cercare nuovi stimoli per le mie ambizioni, certo, artistiche, certo, che comunque per diversi fattori in Sicilia ho ritenuto, diciamo, non dico impossibile, ma difficili da realizzare. E quindi sono venuto in Sicilia, anche perché a Genova, Anche perché a Genova ci abita una mia sorella, insomma, che quindi la tua sorella è stato un punto di appoggio. Il mio punto d'appoggio, certo. Fondamentale, direi. E in più, insomma, nel tempo, perché adesso sto a Genova da quasi 4 anni, ho fatto molte amicizie, soprattutto con musicisti, con cui quindi ho argomenti di discussione. E la scena genovese, come? La scena genovese è fondamentalmente perché ci vive mia sorella. In secondo luogo perché c'è il mare, senza il quale io avrei avuto serie difficoltà. Perché il mare è una cosa nel tuo DNA, assolutamente. Assolutamente nel mio DNA. Cioè io non potrei vivere, con tutto rispetto, a Torino, Milano. Cioè avrei veramente la difficoltà. Sono poi una persona tendenzialmente malinconica di come animo, e quindi ho bisogno del mare per avere un po' di orizzontalità. E poi perché Genova è una città che, per chi ha ambizioni da cantautore, insomma, De Andrea, sì. Tenco, a Paoli, a Lauzi, certo, a certo. Bindi, la scuola genovese, la cosiddetta scuola genovese, insomma, comunque mi dava molti stimoli la città di Genova, e devo dire che mi ha anche fatto bene. Noi siamo molto in contatto con tanti cantautori, non solo, anche band di Genova, insomma. Abbiamo una filiale praticamente staccata di artisti che ci venne a trovare. Abbiamo avuto veramente tantissimi, e tanti sono in lista, verranno ancora. Confermo che ci sono veramente tantissimi cantautori, molti dei quali validi, certo. Seriamente. È una lunga lista che non sto qui a fare, ma vi invito ad andarli a cercare. Ce ne sono tantissimi. Cioè, perché ci sono, infatti io... è da un paio d'anni che organizzo una rassegna per cantautore a Genova, dove ho coinvolto, insomma, cantautori che ritengo e penso che oggettivamente siano molto validi. Certo. Che la rassegna si chiama I Sognautori, sempre facendo uno dei miei giochetti di parole così molto spicci, diciamo. E niente, quindi, e poi comunque c'è veramente un bel movimento. A volte purtroppo ci sono anche lì problemi di natura tecnica, nel senso, certo. Mancano gli spazi dove suonare, perché comunque le cover band dominano anche lì. Sempre con tutto rispetto parlando, perché anch'io ho fatto parte di una cover band e mi ha dato tanto, però spesso purtroppo manca spazio per i cantautori, per chi comunque ha della musica inedita al di là del genere da proporre, perché comunque, insomma, quanta gente mi porti, ma chi ti conosce, eccetera, eccetera. Quindi secondo me bisognerebbe, anzi ne approfitto di Blu Radio Veneto per lanciare un appello ai gestori dei locali, sia di Padova che di Genova, insomma, di dare un po' più di spazio, e di tutta Italia, di fidarsi un po' di più di chi ci prova. Ti garantisco che il problema che tu hai poc'anzi detto è vale per tutta la nostra penisola. No, cioè, ma infatti guarda, cioè, noi come vedi siamo molto testardi e tenaci, certo. E determinati, e siamo qua, insomma. Ma poi ci siamo noi, questa radio così come la nostra, che insomma dà lo spazio a voi, insomma, a me. Evviva le radio. Karen lo sa, Alberto lo sa, esatto. E anche gli altri, insomma, che sono venuti. Anche Antonio lo sa, adesso. Antonio lo sa. Va bene, senti, io ti voglio sentire ancora suonare, cantare, insomma, questo è il tuo spazio, è giusto che tu fai sentire quello che hai, insomma, che ci hai lavorato, insomma, la tua musica, sì. Insomma. Cosa hai pensato di farci? Vi faccio ascoltare. Facciamo la scaletta di seguito? Sì, facciamo la scaletta, è sempre in versione unplugged. Vi faccio ascoltare la terza canzone del disco, si chiama L'uomo senza verità. Ed è un po' una canzone in cui rivendico il diritto, ma anche il dovere che dovrebbe avere ciascuno di noi, di non rinunciare alla propria libertà individuale, a prescindere dalle ideologie o dalle religioni che in qualche modo vengono imposte dalla società in cui nasciamo e ci muoviamo. E soprattutto anche una riflessione ironica, anche un po' a tratti sarcastica, contro chi crede o suppone di avere la verità assoluta in tasca. E quindi io in questa canzone mi definisco un po' l'uomo senza verità, cioè nel senso che l'unica libertà che ho semmai è quella di essere me stesso, almeno provarci. Ok. vorrei fare quel che mi pare, senza aspettare più l'ora arrivare, solo guardare il cielo cambiare e non sentirvi più pontificare. Tutto ciò che so e che tu sai di sapere già tutto, ma purtroppo tutto questo è tutto quello che sai. Vorrei stare in un casolare a conversare con vacche e maiali, più mi confronto con voi umani e più sono d'accordo poi con gli animali. Preferisco la natura e un'ignoranza sincera alla tua finta cultura fatta di civiltà. Ma non chiedermi chi sono, io non ho identità. Non mi chiedere perdono, sono senza pietà. Non mi chieder per chi voto, non ho fede politica. E non venirmi ad insegnare la tua verità. Sono l'uomo senza verità. Vorrei dire quello che penso, senza mentire né spropositare, come chi scrive legge il giornale solo per dire che tutto va male. Qui a nessuno frega niente, mai di niente nessuno, ma purtroppo mai nessuno ce lo ammetterà mai. Puoi andare per ritornare e con la chitarra poter raccontare, oppure partire per arrivare fino a fanculo e potervi invitare. Meglio stare soli a costo di sembrare coglioni che cantare in coro e togliere ogni perplessità. Ma non chiedermi che voglio, io non ho volontà. Non mi chieder come sono, io non ho logica. Non mi chieder per chi prego, non ho santi o divinità. E non venirmi a consolare con la tua carità. E la la la la. Non mi chieder per chi voto, non ho fede politica. E non venirmi ad insegnare la tua moralità. Sono l'uomo senza verità. È una invettiva quasi gucciniana molto forte questa qua. Mi ricordava il Guccini, quello abbastanza... Della velenata. Della velenata, molto forte, molto pesante in alcuni momenti, però... Sì, ci sono delle parolacce. Ci sono delle parole, insomma... Beh, ma ormai è l'ordine dei giorni. Delle parole che però hanno un certo senso, sì, inserite in contesto. Nel contesto del pezzo. E però nel disco era molto swingato all'inizio, qui è molto meno swingato, l'hai proprio scheletro, l'hai ridotto a uno scheletro lo swing, esatto. E l'hai passato a, una, a un unplugged al 100%, esatto. E anche Manuel si diletta con il piano e lo rallenta notevolmente rispetto allo swing che c'è nel pezzo. L'abbiamo un po' ridimensionato per renderlo più efficace, e cos'è se possibile. Poi ovviamente col violino, la batteria e il basso. Il violino dà un certo senso, la batteria dà un certo senso, il basso dà un certo senso. Perché dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, che la band di Antonio è una band cospicua, corposa, anche pesante in alcuni momenti. Sì, ma siamo anche molto grassi, nel senso che siamo anche 100 kg ciascuno. Ah, ecco. Cioè, una pista una band di peso, no, scherzo. Cioè. No, ma è importante, al di là dello scherzo. E, dal punto di vista musicale è una band di peso, non è così tanto semplice il discorso. Ci sono dei pezzi acustici pop, però non tutti i pezzi pop sono delle... Sai, io sono ancora dell'idea, forse un po' anacronistica, che le canzoni, quando sono belle o anche brutte, ma che comunque efficaci, lo sono anche nella loro versione primordiale, sì. Anche solo chitarra e voce o pianoforte e voce, eccetera. Per cui l'arrangiamento serve un po' da supporto, se vogliamo, da vestito. Però ovviamente se una donna è bella soprattutto, diciamo, no, se, nel senso, sì, sì. Quindi ecco, adesso non vorrei scadere nella basso, sì, però ecco, rivolgerti, cioè, musicalmente io, credo molto in questa cosa, a parte lo scherzo. Che comunque una canzone quando è bella, ma è bella anche senza arrangiamento. L'arrangiamento ovviamente la rende più affascinante. Una canzone, ecco, come questa, quando sei andato in uno studio e l'hai fatta sentire a Manuel, com'era nata? Ti crea la voce, come diceva prima Agostino, oppure c'era qualche idea diversa per questo pezzo? Parlo di questo pezzo che è, sì, molto swingato nel disco. Diciamo che non era così swingato, è stato Manuel a portarlo in quella direzione lì. Manuel ami jazz? Sì, lo ascolto. Ah, lo ascolti, no, bene. Lui devo dire che ha, per fortuna mia, una cultura musicale molto più vasta della mia. Cioè, nel senso, lui ascolta anche opera lirica, per capirci, ecco. Mentre io mi limito al pop rock. Quali sono i tuoi gusti? Cosa ti piace ascoltare quando sei da solo? Diciamo che io fondamentalmente ascolto di tutto in base all'umore. Magari evito l'opera lirica, ecco. Però ho la musica classica, a meno che non si tratti di Beethoven, Chopin o Bach, che ho anche ascoltato in determinati momenti. Mm-hmm. Però ascolto un po' di tutto. In genere ascolto, ripeto, in base al momento, il cantautore, cioè, umorale, italiano, insomma, inglese, piuttosto che la band inglese. Quindi i miei gusti musicali, comunque, come dicevamo all'inizio, vanno soprattutto a parare verso la musica che comunque abbia una melodia e che sia coinvolgente per la mia sfera emotiva. Ma c'hai qualcuno? Cioè, se vai in un negozio di dischi, cosa diciamo che io, come, no, beh, ultimamente ascolto i nuovi cantautori italiani che stanno venendo un po', cioè, non so, da Dente a Bruno Risas, cioè, cerco di trovare anche dei nuovi cantautori, certo, che abbiano qualcosa da dire, perché comunque, se vogliamo proprio citarne uno che è un po' stato il mio, come dire, mentore a livello tipo di scrittura, devo dire che mi sono proprio molto ascoltato De Gregori, che è il mio cantatore preferito in assoluto, cioè almeno fra gli italiani, ecco, mi piace tutto di lui. C'è qualche canzone che preferisci? Ma no, non ti saprei dire, appunto, perché dipende dal momento, e quindi poi, cioè, ripeto, ascolto anche musica straniera, dai Beatles, tutto il Britpop, conseguente Coldplay, Oasis, Blur, quindi insomma non ho assolutamente un genere preferito. Certo. Sento Donna Canone sottofondo. È uno dei pezzi più belli forse di De Gregori. Magari a te non piace poi così tanto. No, ma in realtà davvero è talmente bello che lo stesso De Gregori l'ha quasi, sì, arrivata quasi a rinnegarla, sì, quasi, cioè, rinnegata, diventa, sì, veramente una canzone che poi comunque lui propone sempre dal vivo, perché altrimenti il pubblico, certo, gli tira addosso dei sassi. E quindi però, cioè, ce ne sono altre che comunque non ti saprei dire qual è la mia canzone preferita di De Gregori. Comunque Manuel Perasso, per fortuna, ad esempio, condivide con me questo gusto per i cantautori italiani, per De Gregori, Battisti e... Tu cosa ascolti, Manuel, quando sei a casa? Ma anch'io quel genere, soprattutto i cantautori italiani, anche Battiato, Ruggeri prima di Mistero e compagnia. Quei Decibel, allora. Sì, anche, sì. Occhialetti bianchi. Se lo ricordi, era mitico. Polvere era, sì, una canzone, esatto, che si chiamava Polvere. Noi infatti ogni tanto dal vivo proponiamo nuovo swing, cioè, ah, bella, bella, bella, bella, che ci piace, bella, bella, bella, bella, bella. Ma come fa? 20 secondi, dai, ce la fai? Sì. Ritornello? Sì, sì, basta un assaggio. Parte piano il nuovo swing, mentre corri impaziente sul ring. Cambia il tempo attorno a te, e la musica vecchia dov'è? Strumentisti, session man, hanno già sviluppato il refrain. La canzone che vuoi tu, poco dopo non la riconosci più, non la riconosci più, non la riconosci più. Era un era un secolo che non la sentivo questa canzone. Sì. È sempre bella, sempre piacevole da ascoltare, insomma. Bene, benissimo. Un po' scanzonata, ecco. Sì, noi sì, piacciono, sì, queste cose un po' ruffiane, un po' scanzonate, ma che comunque in fondo, se vai a cercare, hanno anche dei contenuti. Dal vivo con la band di adesso, quella nuova praticamente, sì, la scaletta come viene gestita da parte tua? Cioè, pezzi nuovi, pezzi già editi o pezzi talmente sconosciuti che vuoi volutamente farli, allora, sentire? Noi diciamo che ultimamente, da quando abbiamo prodotto questo disco, facciamo una scaletta in cui per primi suoniamo i pezzi del disco, dopodiché proponiamo degli inediti che stiamo in questi giorni registrando per un prossimo disco, esattamente. Perché tu hai detto giustamente, questo è un EP, cioè questo è un EP, diciamo, un inizio di qualcosa che comunque è ancora incompleto, indefinito. Esattamente. Quindi infinito in nel senso di incompleto, certo, anche, fra i vari significati che può avere la parola infinito, e che comunque verrà completato, o meglio dire approfondito ulteriormente, perché poi l'infinito appunto non ha inizio e non ha fine, per certo, definizione, no? E quindi verrà ulteriormente approfondito con il prossimo disco, che conterrà 13 canzoni, almeno che non ne eliminiamo qualcuna nel frattempo, o non ne aggiungiamo qualcun'altra. Quindi un disco ufficiale. E quindi tutto ancora in cantiere, stiamo proprio selezionando i pezzi ancora, insomma stiamo arrangiando un po' con la band in saletta, in sala di prove. E quindi sì, facciamo anche qualche inedito, tanto per dare una sorta di anteprima. È una cosa che volevo sempre chiederti, quando sapevo che dovevi venire qua, come interagisce il tuo essere artista, cioè tu che hai studiato arte, e la musica? Come lo interagisci? Come la unisci? Come la, allora, combini? Diciamo che il trade union è, almeno sia quando dipingo, che quando compongo e canto e scrivo, è la suggestione emotiva. Ah, ok, ho capito. E secondo me è la chiave dell'arte in senso lato, cioè almeno per quanto mi riguarda, io quando vado ad ascoltare musica o vado a vedere una mostra, per capirci, devo assolutamente essere suggestionato, ricevere una suggestione che può essere sia piacevole che a volte anche sgradevole, comunque devo essere suggestionato. O anche quando guardo un film, ad esempio, no? Cioè è la stessa cosa. Se un film mi lascia indifferente, o una canzone mi lascia indifferente, o piuttosto un quadro, cioè per me quello potrebbe anche sicuramente essere un quadro di Lucio Fontana, per capirci, ma non mi dà nessuna sensazione. Quindi per me l'emozione ricevuta, l'emozione data dal canto mio, che comunque faccio, o almeno provo a fare arte, è fondamentale. Cioè senza quella, cioè io non riuscirei a cantare una canzone se per primo non emozionasse me. Non ti emoziona, esattamente. Cioè perché io parto da un'emozione vaga, tramite la canzone in qualche modo la scolpisco, dando una forma che rimane sempre indefinita, poi con la band la oriento, la rifiniamo, certo, e poi la proponiamo al pubblico, e quindi, come diceva, per fare una citazione molto alta, alta, insomma, Pablo Picasso diceva che l'opera d'arte inizia negli occhi dell'artista, continua nella mente, nel braccio, e finisce nel fruitore, nell'osservatore dell'opera d'arte. Quindi l'opera non è mai finita e probabilmente non è mai iniziata, e quindi è un discorso abbastanza complesso, bisogna soltanto cogliere l'emozione, poi alla fine è quella la chiave. Ma sono attimi della tua vita quelle canzoni? Sì, certo. e sono aspetti della mia vita, nascono da momenti di vita, insomma, vissuta, cioè, che poi cerco, come dicevo, esperienze mie, esperienze sia vissute che anche soltanto immaginate. No, spesso la realtà tramite l'arte viene trasfigurata, cioè viene trasformata in qualcos'altro, quindi in qualche modo idealizzata. Cioè io posso raccontare una cosa di ordinaria quotidianità e trasformarla in qualcosa di, non dico sublime, ma comunque la poesia serve un po' a quella, no? La poetica dell'ordinario, cioè è un po' quello. Secondo me spesso nelle piccole cose si possono cavare le cose più profonde e grandi dal punto di vista poetico, e quindi non c'è un soggetto preferito di altri, tutto può essere oggetto di arte o di emozione, cioè da tutto può nascere, secondo me, una canzone, un quadro, quindi ecco la... E questo è anche il bello dell'arte, no? Il fatto che si può cavare l'arte da qualsiasi cosa, ma bisogna farlo soprattutto in modo molto sincero, perché poi comunque quello, secondo me, il pubblico lo capisce. E quella che ci fai ascoltare adesso, com'è nata la canzone? La canzone che vi faccio ascoltare è Mediterraneo. Mi piace molto la tua amica Karen. Sì, è una canzone che ho scritto quando ho deciso di partire dalla Sicilia per andare per Genova. E quindi è una canzone che ho scritto dedicandola alla Sicilia, quindi è una sorta di canzone d'amore dedicata a un luogo. Ovviamente la canzone è molto nostalgica, c'è già il pensiero di dover abbandonare un luogo, no? Infatti nel ritornello dico andare, tornare e restare, però allo stesso tempo con questo, no? Non si va mai via completamente da un posto. Quindi qui l'infinito, che dal titolo al disco, diventa spaziale. Però davvero non ci si sposta mai, cioè non si va mai via completamente da un posto. E quel posto rimane dentro di te, perché comunque il posto sei tu. Ecco. Ok. Blu Radio Veneto. Alto sul mare, va lontano, dove chissà, mentre un aeroplano vola ma non lo raggiungerà. Tra gli ulivi sento una voce, tu non vivi. Ripete a me che sono in bilico tra la sete e questa siccità. Andare, tornare, restare con questo sapore di sale che sa sempre troppo di te. E di questo dolore che c'è nel Mediterraneo, nei cortili tra case al sole, dei bambini giocano, ma sarà poi la realtà che contro di loro giocherà. I colori tra terra e cielo e gli odori urlano che è un male antichissimo che ferisce questa libertà. Andare, tornare, restare con questo sapore di sale che sa sempre troppo di te. E di questo dolore che c'è nel Mediterraneo. Andare, tornare, restare con questo sapore di mare che sa sempre troppo di te e di questa bellezza che c'è nel Mediterraneo. Sì, era un pezzo molto bello che sapeva di Sicilia, e difatti dal punto di vista musicale nel disco aveva molto questi sapori assolutamente mediterranei. Anche qui, anche in questo momento, in questa versione unplugged, dei sapori sono rimasti, chiaramente in versione unplugged, quindi coloriti in maniera diversa, possiamo dire questo. Sì, cambia l'ordine dei colori, ma il risultato non cambia, non cambia, rimane sempre quello. No, ma poi io credo che comunque sì, io l'ho scritta per la Sicilia, ma io spero che possa essere valida anche per chiunque vive in un luogo che si affaccia nel Mediterraneo. Credo che certo. Sia, ho cercato più alto di descrivere una sensazione comune, quella che si può chiamare anche mal d'Africa, no? Come certo. Quella sensazione di spaesamento che si trova a provare chi vive nel Mediterraneo, cioè in tutto il bacino del Mediterraneo, dal Medio Oriente a Genova, per capirci. Certamente. O alla Spagna, ecco, quindi non per presunzione, insomma, ho cercato a modo mio di descrivere questa sensazione. Tu hai detto, poi ribadito prima con la presentazione, presentando il pezzo, che l'uomo, cioè si allontana dal luogo, quindi sei allontanato dalla Sicilia, sei andato a Genova, un'altra città di mare, però non dimenticherai mai, chiaramente, rimarrà sempre il luogo tuo. No, ma lo è. Cioè, lo è sempre. Certo, perché non è che, cioè nel senso, non sono emigrato, ecco, no, non è esattamente. Che sto estirpando le mie radici, certo, cioè, certo. Le radici sono profonde, profondamente dentro di me. E però lo scopo, ecco, di questo mio spostamento è stato quello di cercare di espanderle queste radici, non solo a un luogo, ma non dico in tutto il mondo, ecco, però cercare di espandere queste radici, cercando, perché sai, se è vero quel che si dice degli alberi, che più profonde sono le radici più le fronde arrivano in alto. Sì, ecco, volendo fare una metafora, questa è una metafora. Cioè, allora potrebbe funzionare anche per gli uomini. Ecco. Si vede che hai studiato pittura. Tutte queste cose vengono fuori da uno che ha studiato. Dobbiamo sottolineare una cosa molto importante, che Antonio ha fatto una tesi di laurea sulla pittura degli anni 20, chiaramente. Poi a Genova hai studiato anche scenografia, una cosa del genere. Sì, ho voluto provare a fare qualcosa che mi aveva sempre affascinato, la scenografia, in quanto io sia con la pittura che con le canzoni cerco di ricreare delle atmosfere. Sono scenografiche le canzoni, e quindi, che tu, esatto, fai. Ho fatto scenografia a questo corso che poi a poco mi è servito in realtà, ma che a livello burocratico, diciamo, a livello pratico, però è stata comunque un'esperienza di vita che mi è servita in qualche modo, ecco. Cerco di rendere costruttive tutte le mie esperienze, anche le peggiori. Certo, ma potresti buttarti anche nel cinema, allora. Potrei anche buttarmi nel cinema. So nuotare, fare il tuffatore mi sembra ancora un'arte. No, ma comunque, no, chissà. Non mi chiudo nessuna porta, perché tengo le porte socchiuse. Bene, bene. Adesso ci facciamo riposare un pochino, anche perché vedo che sei in difficoltà con la raucedine, che forse ti ha preso, esatto, in questo momento. E facciamo ascoltare qualcosa dal disco, Antonio, sei d'accordo? Sì. Abbiamo scelto Notte d'estate, questa immagine così bella di una serata estiva, esatto. Penso che sia splendida. Ascoltiamo, poi magari ne parliamo? Va bene. Ok. D'estate strana e metafisica, il cuore cuore aperto verso il mare. Col suo profumo sale una canzone che ci fa ballare. Notte isterica, tu danza e sfoga la tua rabbia atavica. Negli occhi hai voglia di cambiare, di ridere, provare un'emozione vera come un sogno che potrai toccare. Dimmi cosa ti aspettavi dalla libertà. Non pensare, lasciati andare con la musica. Noi voleremo sopra la città come se non ci fosse più nessuno al mondo. Dimmi cosa ti aspettavi da uno come me. Non pensarci, lascia stare, balla insieme a me. E domani all'alba il cielo arrossirà nel vedere la bellezza della terra nuda proprio. Suona una chitarra elettrica. Noi che corriamo verso il mare. Dal suo profondo sale una fragranza che ci fa sfogliare. Notte esotica. Il firmamento canta un'aria cosmica. Noi sulla spiaggia ad ascoltare, a bere ed a fumare questa sensazione breve che mai più potrai scordare. Dimmi cosa ti aspettavi dalla libertà. Non pensare, lasciati andare con la musica. Noi voleremo sopra la città come se non ci fosse più nessuno al mondo. Dimmi cosa ti aspettavi da uno come me. Non pensarci, lascia stare, balla insieme a me. E domani all'alba il cielo arrossirà nel vedere la bellezza della terra nuda proprio come. Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 23 20 033. Blue Radio. Blue Radio. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Ancora qui in diretta, ancora per circa 20 minuti, poi sarà la volta della musica rock, della classifica della musica rock con Alberto Prisco dalle 22.30 alle 24, come di consueto ogni giovedì. Questa intanto comunque è la fascia oraria chiamata Blu Radio Sera con Agostino Spolaure e con Maurizio Calzavara, ogni giovedì presenti qui, ma la settimana prossima saremo anche lunedì, Maurizio. Esatto, sì. Però cambieremo orario magari. Sì, sempre lunedì e saremo alle 10 dalle 22.30. Sì, ma è bello, perché rock è rock, perché sei un pezzo rock, alla fine, caro Antonio. Ti sei gettato, non ti sei buttato come vorresti fare il cinema, ma ti sei buttato nel rock grazie a Manuel che è qui presente, che ha fatto un bel assolo. Tu parlavi a microfono spinto alla Santana. Sì, alla Santana era così, era un po' alla Carlos, possiamo dire così, dai. Sì, un po' di gusto sudamericano ci sta sempre, visto che il pezzo comunque aveva l'ambizione di essere solare, nonostante descriva una notte d'estate, ma sempre d'estate si parla, no? Certo, quindi certo. A me piace pensare all'estate come un momento di svago totale della mente, dello spirito, di tutti i sensi. Genova sarà bellissima d'estate. Genova è bella soprattutto d'estate, sì. Quel pesto alla genovese magari ci vuole. quello è bello tutto l'anno, eh. Vedi. Ci stanno rimpacciando che non abbiamo portato il pesto. No, perché ci organizzeremo per la prossima volta. La prossima volta porteremo c'è qualcuno che fischia. Chi è che fischia? Maurizio, c'è qualcuno che c'ha la cuffia alta magari, ecco. Vabbè, siamo. Ok. Vabbè. Allora, questa era appunto Notte d'estate, una canzone. Chi è che c'ha la cuffia un po' forse alta? Ci sei? Ci siete? Ci siamo? Sì, ci siamo sempre, ci siamo sempre. Parlando di Notte d'estate, abbiamo citato Notte d'estate, questo pezzo che ha tante chiavi di lettura, una chiave di lettura iniziale, molto acustica, quasi pop, poi una chiave di lettura molto più accentuata, alla fine, come abbiamo detto, alla Carlos Santana. Perché ci hai messo tutte queste cose, Antonio? Ma in realtà non è che mi sono messo a tavolino, ho detto adesso faccio questa addizione. È senso positivo, Certo, positivo. No, nel senso che mi è venuta fuori così, avevo questa melodia questa dentro. Melodia, questa atmosfera, perché io porto spesso delle atmosfere, delle emozioni molto vaghe, come dicevo prima, che poi cerco di quantificarle, di materializzare attraverso una melodia, una struttura metrica, un testo. E mi è venuto fuori questa melodia, questo riff di violino, così quasi ostinato, che mi ricordava un po' quello che appunto volevo dire, cioè descrivere con parole, cioè, perché la cosa difficile a volte è riuscire a scrivere una canzone e parlare di cose anche semplici, no? Che spesso si cade nella banalità, perché il confine è sottile. Quindi scegliere le parole giuste, la giusta melodia che fosse avvincente, coinvolgente nella giusta misura, per poi descrivere appunto quella che è una notte d'estate, quindi senza nessun pensiero se non quello di, no? Andare via proprio con la mente, con l'anima, il corpo, e quindi insomma liberarsi completamente, esatto. Manuel, siccome c'è Antonio che non ci sta ascoltando, com'è lavorare con Antonio? Ma interessante sicuramente. È pignolo, confessaci. Il dietro le quinte. No, più che altro ha spesso già un'idea ben precisa di come deve essere poi il pezzo alla fine. E quindi si riesce a lavorare abbastanza, diciamo, rapidamente. Di solito lui ha già in mente quasi tutto e noi gli si va un po' dietro così. Ma ci mettete qualcosa di vostro anche all'interno? Oppure... Sì. Ci mettiamo anche del nostro, però lui ci dirige con autorità. No. È un bravo padrone di casa, diciamo. Ottimo, sì. No, ma cioè, non è che li dirigo con autorità, nel senso, cerco di dare la libertà, però mi piace quando loro, con Manuel ad esempio succede praticamente sempre, riescono a capire qual è l'anima del pezzo, perché il musicista che suona un pezzo sì, può interpretarlo, però nel momento in cui si deve rendere la canzone nella sua versione standard, come quella appunto del disco, secondo me si deve entrare bene nell'anima del pezzo, altrimenti di qualsiasi canzone si ne può fare qualsiasi altra cosa, no? E quindi mi interessa quello. Io ho un'idea, come diceva lui, abbastanza chiara dei pezzi nel momento in cui li compongo alla chitarra. Poi i pezzi spesso prendono un'altra direzione, ma perché disaggiungono delle cose che gli danno appunto un valore in più. Giustamente, come hai detto tu, quando si fa un disco sì, chitarra e il pezzo è scheletrico all'inizio, poi che si fa un disco c'è la partecipazione di altra gente, di altri musicisti, non solo di te. E comunque non sempre un musicista riesce a capire un pezzo, e non dipende neanche dalla bravura, dalla capacità tecnica. Io mi sono trovato, lo dico senza rancore, a trovare con dei musicisti molto bravi che non riuscivano a capire quello che volevi dire. Quello che volevo dire. Ma non tanto per me, perché non lo faccio ovviamente con nessuna prepotenza, ma perché non riuscivano a cogliere la sensazione che volevo comunicare e che loro quindi non riuscivano a darmi. E per quello cambi il band sempre. È capitato anche quello. Antonio, non abbiamo ancora detto i tuoi tra virgolette dati, cioè dove, se qualcuno ti volesse contattare, allora, chiamare. Il mio codice IBAN per i versamenti, di solidarietà. 5 per 1000, donate il 5 per 1000 Antonio Clemente. No, vabbè. Io sono presente su Facebook, ho la mia pagina artista Antonio Clemente fra parentesi pittautore, sono anche su MySpace, su SoundCloud, su YouTube, potete trovare tutti i video delle canzoni più dei video di canzoni inedite anche nella versione live. Mi trovate soprattutto su iTunes, dove potete ascoltare, commentare e se volete scaricare le canzoni a prezzi modici. Come dicevo, su SoundCloud invece è un sito dove ci sono molti artisti, musicisti, si può ascoltare le canzoni, ci sono delle versioni del disco in versione unplugged che si possono scaricare gratuitamente, quindi pianoforte, chitarra e voce le ho messe lì per chi volesse scaricarle insomma in maniera gratuita, però su iTunes si può comprare il disco e se si vuole anche fare una piccola recensione, il che insomma ci farebbe piacere, certo. Anche negativa ovviamente. Sì, certo, basta che sia sempre comunque costruttiva. Sì, infatti, ecco. Poi ovviamente quelle negative noi le elimineremo. Però è giusto dire che siamo diplomatici almeno. Comunque in teoria cioè, si, può, si può trovare il tuo disco anche nei negozi di si disco. Può trovare anche nei negozi a Padova, per gli amici di Padova si può trovare da Dischi 23, e mitico poi negozio. Il mitico negozio di Padova, dove siamo stati ieri, ed è veramente un bellissimo negozio. Pensate che io compravo dischi nel 1976, quando c'erano ancora le lastre in pietra con la musica incisa. No, è davvero un bel negozio, ed è quasi un miracolo che esistano ancora questi negozi così belli, perché purtroppo dobbiamo dirlo, stanno salutiamo Maurizio, sono in via di estinzione, quindi sì, esatto. Evviva i negozi di dischi, evviva le radio, e chi ci crede ancora, ecco. Certo. E i prossimi tuoi concerti invece? I prossimi nostri concerti, abbiamo una data per la provincia di Imperia per il domenica 20 maggio alla trattoria pizzeria bar La Peppia di Bossananova in provincia di Imperia, dove saremo ospiti di Angelo Delfino, che è l'oste della trattoria, che salutiamo, dove comunque ogni domenica sera fanno musica di cantautori e se c'è un buon liguri pace. E c'ha sicuramente un ottimo pesto, andiamo a trovarlo sicuramente. Salsa di noci, panzote e tutte le pietanze un bracchetto ci vuole? Focaccia con lo stracchino e quant'altro, tutte ecco. Prelibatezze liguri, e poi abbiamo delle date che sono da confermare per giugno. Però chi fosse interessato insomma a venirci a ascoltare in Liguria può sempre tenersi aggiornato tramite la nostra pagina Facebook, appunto Antonio Clemente Pittautore. E chi fosse all'ascolto e ci volesse invitare a suonare in tutta Italia, tu sei disponibile. Ci contatti, che noi insomma saremo pronti a venire a portare la nostra musica. Certo. Senti, abbiamo ancora 15 minuti scarsi in tua compagnia. Ci ascoltiamo ancora un paio di canzoni, ce la facciamo. Va bene. E cosa ci fai ascoltare adesso? So che avevi in mente magari qualcosa del nuovo o no? Ma io intanto vorrei farvi ascoltare la versione di Infinito, che dà il titolo al CD, versione unplugged. Certo. Che secondo me è il pezzo più importante del disco. Più importante. Secondo me, cioè, noi della redazione abbiamo recensito dicendo che questo è il pezzo più importante, beh, anche perché come costruzione è importante. È uno degli ultimi pezzi che ho scritto, è che racchiude molto di me, è una canzone molto autobiografica, che racconta più che altro la mia vita da un punto di vista emotivo, come cerco sempre di fare. Ok. strada sotto casa, le persone e giochi fatti d'aria, terra, polvere e cartone, e gol sulle saracinesche, i muri col pallone e poi televisione. Mio padre mi diceva da bambino di non andare scalzo per la strada ed io capivo già quanta differenza c'è tra la necessità e la mia libertà. È molto più facile sognare la realtà che realizzare i sogni in un contesto che fantasia non ha. E mi sembra inutile scoprir l'eternità. È solo in questo mondo che ho intravisto l'infinito. Degli oggetti familiari è un tempio di segreti, di dolori solitari, perduti in uno specchio che riflette i miei pensieri e i ricordi più veri. Mia madre mi chiamava dal balcone mentre io rincorrevo in cielo qualche sensazione, ma al mio ritorno d'improvviso la malinconia mi spinse ad andar via. È molto più facile sognare la realtà che realizzare i sogni in un contesto che fantasia non ha. E mi sembra inutile scoprir la verità. È solo dentro me che io ho già visto l'infinito. È bellissimo questa canzone, ci è piaciuta subito sia a me che a Maurizio, infatti l'ha messa anche in programmazione e sta girando nelle nostre frequenze. È molto bella, vero Maurizio? Sì, sì, è molto bella, molto significativa. E anche la versione che avete dato qua stasera, Unplugged, era molto interessante. Il pezzo, ripeto, secondo me è il pezzo più importante dell'album. E poi c'è la band proprio che ti segue, lo trasporta al violino, tutti gli strumenti, che lo trasporta nel senso vero proprio del termine, e questo è un pezzo con testo molto, molto significativo, ed è il pezzo Crew, il pezzo che raccoglie, che fa da liaison a tutti gli altri. Su questo è stato anche il più difficile da arrangiare. Esattamente. E se siamo arrivati a questo risultato, devo dire che oltre a Manuel, Alice, devo anche molto al batterista Stefano Lucchesi, che alla prima volta che l'ho ascoltato, come per magia, è riuscito a trovare subito la ritmica di batteria incalzante. Ma subito, alla prima volta che l'ho ascoltato. E quindi l'abbiamo registrata così come poi l'abbiamo provata. Ecco. Quindi ne sono molto soddisfatto. Lo vorresti fare anche come singolo questo? Un ipotetico singolo? Sì. Dovremmo anche realizzare dei videoclip, farli girare su MTV, Video Italia, però ecco, non dipende esclusivamente da noi purtroppo, però sì, si potrebbe sicuramente scegliere come singolo perché mi rappresenta molto. E l'avevi già intuito il sistema, cioè le diverse momenti musicali di questo pezzo? Avevi già capito già che musica dovevi fare su Infinito? In realtà no, la struttura è venuta fuori insieme alla band, suonandola alle prove. Questo perché... è proprio un live nel senso, esatto, titolo del termine. Sì, assolutamente, sì, è stata... live, creata io, proprio io avevo momento. La melodia fondamentale, le parole, poi però non sapevo che dove potesse andare a parare, cioè come potesse essere completata per renderla più efficace. Infatti l'abbiamo veramente stravolta un sacco di volte, finché poi alla fine siamo riusciti a arrivare a quella soluzione lì del disco. Poi ovviamente live la facciamo anche sempre diversa. In questo caso ad esempio Unplugged l'abbiamo anche accorciata, perché non c'è tutto assolo finale, certo, che è un assolo, ripeto, d'antologia del rock. Com'è che fa? Fateci risentire questo assolo finale. Ma manca la chitarra elettrica, altrimenti farebbe tutto un assolo alla David Gilmour, pieno di bending, eccetera. Ti stai provando? Vabbè. Sì, ma non rende. Col pianoforte non rende. Non rende. Ti consiglio di passare il pezzo del CD quando potete. Certo, beh viene in rotazione molto frequentemente questo pezzo qua, Infinito. E però io ho notato una cosa, che Emanuele, tu inizio hai cominciato con la chitarra acustica, Emanuele dava dei piccoli tocchi al piano per dare un certo senso anche a questo pezzo, in questa versione, assolutamente. Cioè lo trasformava, perché giustamente in una plug bisogna trasformare i pezzi. Eccola. Tira. Voi potete vedere, ascoltatori, le movenze della faccia di Antonio. Ma vuol dire che ci sei dentro al pezzo, al 100%. Assolutamente. Quello è... Antonio, sì. Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine. Sono le 22, quasi 25, dobbiamo lasciare lo spazio ad Alberto. Va bene. Prima però ci ascoltiamo la tua ultima canzone, ma prima ancora ti ringraziamo di essere stato qui questa sera, di aver accettato l'invito di venire qui. Grazie a Paolo. Grazie mille a voi, siete state gentilissime e molto ospitali. Spero di rivederci presto. Magari il prossimo disco ti aspettiamo. Volentieri. Magari con volentieri. Un quadro. Così magari vi porto un quadro, un po' di pesto alla genovese, magari dei cannoli siciliani. Non è che fai anche qualche caricatura? A te di tuo, no? Sì, la faccio anche. Potresti sì. fare qualcosa sulla Blu Radio Veneto, no? Volentieri, ve lo posto su Facebook, lo vedrete presto nelle vostre bacheche. Ecco. Bene. Sarà un graditissimo omaggio, regalo che ci fai. Antonio, grazie ancora di essere venuto qui a questa sera a Blu Radio Veneto con la tua musica, il tuo disco che si chiama Infinito. Maurizio, noi ci diamo appuntamento a lunedì avremo 22:30. Iniziamo la settimana alla grande. Poi l'appuntamento per giovedì invece è sempre alle 21. Ci sarà una femminuccia questa volta, ed è Cassandra De Rosa che ci viene a trovare dalla Toscana e ci fa ascoltare la sua musica pop. E prima di salutarci, di lasciarvi al buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto, ci ascoltiamo l'ultima canzone di Antonio, che si chiama Via da me, che chiude il disco. Che chiude il disco. Ciao a tutti e buon proseguimento con Blu Radio Veneto. Ciao ciao. Se tutto ciò che inizia finisce, allora cos'è l'infinito? Soltanto un'impressione, una fragile invenzione del cuore, del cuore. Nessuno ha mai saputo spiegare davvero cos'è questo amore che ci fa emozionare, sognare, poi pian piano svanisce, svanisce. Ma questo non lo posso accettare, perché ti fa stare male. Ma il cuore non lo posso tradire, e anche se fa soffrire è meglio che finisca così. Scappa via, via da me, dai ricordi, dai rimpianti e i perché. Scappa via, via lontano, via da me, ma fammi stare con te. E adesso che la luce sparisce, allora mi affido al destino. Ma questa direzione forse è una distrazione del cuore, del cuore. Ma questo non lo posso accettare, perché mi fa stare male. Ma ancora io non riesco a capire se questo può servire a cambiare o se rimango così. Scappa via, via da me, dai ricordi, dai rimpianti e i perché. Scappa via, via lontano, via da me, ma fammi stare con te. Via da me, ma fammi stare con te. Via da me. Grazie mille, grazie a tutti.